sei giovani, sei giovani che ti parlano qui stasera. Ti parlano, ancora non sappiamo bene di cosa, ma vi parleranno. Cercheranno di comunicare. Grande cosa quella della comunicazione. Numero 27 in partenza sui binari di Radio Catalano 19. Ragazzi, mi sono fumato il radio. Signore e signori, è con immenso piacere e un pizzico di ardire che annunciamo l'inizio delle trasmissioni. Radio Catrame 19, la radio inusuale. Puntata numero 27 di Parla come scrivi, puntata un po' rivoluzionaria perché il paese è in profondissima crisi, profondissima crisi. Non se ne vede via d'uscita. Napolitano è lì che consulta tutti, dice il nostro sociologo che ha chiamato, l'ha sentito su Radio 24, ha chiamato anche i PU. Sì, non so se era per scherzo oppure era sul serio, però mi è sembrata questa cosa qua che avesse chiamato anche i PU. Ebbene sì, I Pooh, cioè il gruppo rock, che c'entra? Ma quanta gente ha chiamato Marini, quanta gente ha chiamato? Ma no, ma lo dicevano per dire, nel senso, ma sì, chiami anche I Pooh, ma sarà stato in questo senso. E comunque sia, se era una battuta era di pessimo gusto, perché sì. Tra tutti quelli che avrebbe potuto chiamare anche I Pooh, io penso che sia stata una delle peggiori idee della Seconda Repubblica. Sì, anche di più. Anche della terza e della quarta, perché tanto i Pu ci saranno anche nella terza e nella quarta dei Pu. Lo sapete? I figli dei Pu ci sono già. Esatto. E quindi bisogna a questo punto lì agire sulla fertilità dei Pu, perché sennò questi vita naturale durante ci sarà. Comunque, torniamo sui nostri binari, partiamo dalla crisi, però partiamo anche da una crisi con un buco, perché il in questi giorni il buco è arrivato. Innanzitutto vi salutiamo, oggi è giovedì 31 gennaio, sono le 22:21 agli orologini dei nostri computer e voi state ascoltando Radio Catrame 19. Questa è la fascettina istituzionale che andava messa. Salutiamo il nostro Enz, il nostro fonico che è tornato come Enz. Che è tornato e ci ha portato anche il nostro sociologo, che è arrivato in un tempo record. Io non so chi abbia guidato, se abbia guidato Enz. Enz era completamente ubriaco. Ecco. Si è fermato ad Ariccia a prendere la porchetta da un porchettaro e ha bevuto. Ha bevuto e ha ribevuto. No. Ed è uscito da quel porchettaro, si è rimesso nell'autostrada e siamo andati ad una velocità folle verso il vagonaccio. Parevano ore, ore di terrore in mezzo a quella nebbia di Assergi. Ebbene sì. La nebbia di Assergi, potrebbe è il titolo di un libro. La nebbia di Irticolli. La nebbia di Irticolli è quella che c'è a Roma, gli Irticolli, c'è al Quirinale. Sì, la sì. Nebbia del Quirinale. Ma noi dicevamo il buco. Il buco, allora, il la buco. Crisi, lo sarete sicuramente guardando anno zero e quindi ci risentirete anche in podcast, quegli ascoltatori che in questo momento qui sono collegati invece in diretta sappiano che noi abbiamo trovato all'interno della crisi un buco che però riguarda la musica e più in generale la circolazione della musica sulla rete. Ci riguarda da vicinissimo. Allora, voi sapete che noi mandiamo soltanto musica Creative Commons, distribuita con licenza Creative Commons, ma da stasera, e venite ad arrestarci se non abbiamo ragione, che bella ipotesi, possiamo mandare tutta la musica che vogliamo, perché lo scoprite tra qualche minutino. Sì, qualche minutino. Per ora vi beccate una canzone che comunque è sempre scaricata dalla rete, quindi non ha una licenza SIAE, quindi comunque è usabile per non a fine di lucro, come così come facciamo noi su Radio Catrame 19. Io volevo mettere una canzone di due pisani che abbiamo già sentito diverse volte. Bellissimo. I Gatti Mezzi. Abbiamo già sentito una volta una canzone che si chiamava Tragedia per l'estate, tragedia dell'estate in cui affogava un fiorentino. E stasera vorrei mettere un'indicazione che forse molti politici potrebbero prendere in considerazione, così partiamo in maniera proprio populista, proprio. No, stasera siamo impauriti. No, diciamo la verità, stasera siamo impauriti perché dobbiamo affrontare cose serie. Cose serie. E si parlerà della crisi, cioè, insomma, parlano tutti della crisi e si deve parlare anche noi della crisi. Anzi, noi si cercherà, come facciamo solitamente, di anticipare quello che succederà nel futuro. E nel futuro potrebbe essere che i nostri politici andassero tutti a vangare per passione. Loro sono i Gatti Mezzi, vengono da Pisa e la canzone si chiama O guardate per l'appunto proprio Vango per passione. Vai Hans, col mixerino nuovo e bisogna che tu l'attacchi bene sta canzone. Vai Hans! C'era l'onde che inghiottivano le baracche e parevano ostie. Le signore imbellettate in sulla strada s'agguantavano agli scogli, le tiravano col mare, parevano sugherine una volta d'entrare al mare. E l'omini, oh l'omini, vestiti nero fumo restavano a guardare le donne che urlavano, bimbetti piangevano. Tragedia dell'estate. E dal mare li becciate sfragellavano gli ombrelloni che dietro a gommoni parevano stettini che abbracciavano pieni di là dalle asine. Tragedia dell'estate. A tutta questa barea onda, incurante dell'onda, sortiva col patino e affogato un fiorentino. Tragedia dell'estate. Sbagliato. lontano il cielo schiariva e negli occhi della gente l'espressione cambiava. E un vecchio che diceva: fra un minuto non c'è più nulla. Aveva delle grinze nel muso, pareva un letto sfatto. Danni retta Fiorentina, il vecchio marinese. Te l'aveva detto che il mare ti strezza. Chi semina prumi un vaga scarso. Tragedia dell'estate. Fa così, ci sarebbe proprio da prenderlo a manate, non c'è che dire. Bisogna dire che ci ha rimesso per l'ennesima volta la stessa canzone dei Gatti Mezzi. Noi volevamo far sentire Vango per passione, invece il nostro carissimo Enz ci ha rimesso Tragedia per l'estate. Allora, in attesa che Enz si riprenda dalla sbronza, abbiamo sentito prima dalla viva voce del sociologo Calzolai, che ha fatto il viaggio insieme a lui in moto, che ha preso la sbornia a Tavernello. Diciamo che ognuno prende le sbornie, ognuno si prende le sbornie si merita, cioè prende la sbornia a tavernello. Scusate se esisto. Esatto, non abbiamo ancora, fra tutti questi casini di Enz che sbaglia le canzoni, non abbiamo ancora presentato Liv, che è l'altra columna. Non siamo un diciamo così un'ape. Un'ape con tre rose, che però la fine quelli, i cinquantini, e vanno alla grande. Sì, sì, vanno sì, alla sì. grande. E la rosa centrale, non c'è la rosa centrale nell'ape, diciamo quella davanti, quella davanti. Che dà la direzione, quella che dà la direzione, perché le due dietro. Però dai, su, smettetela, dai, però una bella metafora. No, io al massimo posso fare il portabagagli dietro per le mie dimensioni ampie. Vabbè, giù. Allora, giù, ecco, allora, giù. Allora, mentre cala il microfono e sapete giù. Che... Allora, parliamo un secondo della strumentazione nuova. Allora, la strumentazione. Non è pubblicità. Come avevamo preannunciato a dicembre, dopo che Radio 2 ha rifatto gli studi, ci siamo ripresi un po' di roba vecchia da loro, però comunque ancora in buono stato. Fra le varie cose abbiamo tutto un missaggio, si dice missaggio, non mixaggio, un missaggio nuovo fantastico, microfoni, cuffie, cioè siamo veramente ad altissimi, altissimi livelli. Sentite un po' che messaggio mi fura. Ormai è andata a altissimi livelli. Mo, il problema è che Enz non la sa usare. Esatto. Perché la tecnologia è al servizio dell'uomo. Quando l'uomo non è al servizio di se stesso, non è presente a se stesso, la tecnologia non serve. Però speriamo di riuscire ad andare. La parola di questa sera è... sono due parole. Una parola nuova che farà sì. tendenza dopo Web 2.0 e un altro che è uno slang. Inizia un modo di dire nuovo. Sì. Iniziamo dal primo. La parola è... te la posso dire in inglese? Sì. Degradate. Degradate. Che sarebbe degradate. Degradati, che significa? C'è una marca di dentifricio? No, è un termine. Degradare. Alla terza lavata di denti ti viene la carne. No. È una cosa più seria. Bello. Che il nostro, perché l'ho conosciuto una persona veramente in gamba, Andrea Monti. Andrea Monti è un avvocato molto bravo, molto anche famoso per quello che questa riguarda... sera ci servirà. Sì, che ci servirà, infatti sono tranquilla perché una volta l'ho conosciuto, quindi ho detto magari ci mette la prova buona. Comunque è un avvocato molto conosciuto in tutta Italia, non solo, perché perché si è sempre occupato di, diciamo, diritti d'autore, soprattutto sul web, così. Ha anche una, non so se esiste ancora, un'associazione che si chiamava Alcei. Uh-huh. Per lo sviluppo dei contenuti, se non sbaglio, tipo Creative Commons, che esiste già da diversi anni. C'era anche il mitico Livraghi. Comunque, cosa ha fatto Andrea Monti? Ha spulciato la nuova legge sul diritto d'autore e dice, secondo lui, una cosa fondamentale: ragazzi, con gli MP3 fate come vi pare, li potete usare. Noi anche stasera ci spariamo due belli MP3 No, no, però aspetta, specifichiamo. Allora, perché usare... si possono usare come e quando? Esatto. Intanto c'è, vedo che saltella il saltella Skype perché... Ricordiamolo, ne approfittiamo per ricordarvi... attenzione. Che in questo programma è altamente interattivo, nel senso che avete a disposizione la chat, Skype, l'email, insomma, avete e tutti. Se si fosse in un paese efficiente, anche il servizio postale. Esatto, anche il servizio e invece postale. No. Allora, però, mi interrompo perché il nostro, un nostro ascoltatore, un certo mastro, non so che cosa, perché non è mezzo anonimo, ci ha detto una cosa fondamentale, che nel 2003... lui ha incontrato per la prima volta Hans e l'ha visto fare il fonico dei Pooh. No, cioè quegli stessi Pooh che ha chiamato Marini per le consultazioni. Hans. Incredibile. Hans, qui c'è qualcosa di strano. Sì, beh, lui si sta parlando con Briao, perché Hans è andato, cioè stanno venendo fuori aspetti del tuo passato, Hans, che non so quanto tu ci abbia. Con i Pooh a missare, mi dispiace di lasciarti, svegliarti. Chissà perché Hans è qui con noi. Chissà, forse Hans ci vuol fare da tramite, da broker sociale direttamente con i Pooh. E forse addirittura con Napolitano. Marini, sì. Ma comunque, scusate, noi Catrame 19 sta. E se chiamasse anche noi Marini? Guardi, stamattina può essere, perché vedi, oggi c'è una concentrazione di abruzzesi nel mondo. Marini Aquilano, tu lo sai, quindi si vede un po' l'aspetto rustico. L'altra sera in Senato, quando chi è che ha stappato la bottiglia? Dove sta bottiglia? Mica sei monosteria! Gli è uscita proprio abruzzese! Dove sta bottiglia? Gli è uscita, mi sembrava nonno, dove sta bottiglia? E le osterie, chiediamo scusa a tutte le osterie per averle paragonato al Senato. Appunto. Della Repubblica dell'altro giorno. Soprattutto l'osteria di Marcello che ci ha ospitato questa sera. Sì, sì, sì. Altro abruzzese è questo famoso Andrea Monti che vi dicevo, che ha detto, in sintesi, spucciamo questa legge. La legge sul diritto d'autore libererebbe, secondo un comma che possiamo interpretare in un giusto modo, la pubblicazione degli MP3 su internet, sui siti che hanno un interesse didattico o scientifico, non a scopo di lucro. E qui noi ci siamo. E noi ci siamo, perché, oddio, noi fa didattico e scientifico, diciamo che tutte siamo... Tutte e due, perché... Tutte e due. Vabbè, didattico... Ma tu ti senti più didattico? Io più didattica. Carbonara calzolai più scientifico, tu scientifico. Che fai? Tu fai non a scopo di lucro, vai. Io non a scopo tu di fai lucro. Tu fai non a scopo sì, di lucro. Sì, sì. Tutte le cose che faccio io sono sempre... Ecco perché non c'ho manali radicati. Mortefa! No, io fo per dire. Cioè io vengo qua con... Se c'ho 20 euro, esco fuori, ci sono sempre 10, 5. Allora, torniamo alle cose serie. Allora, che cosa succede? Citiamo la legge. Citiamo la legge. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico scientifico, solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. E ci dice... Sta Marcosto. E ci dice... Qui tutta una rimessa. Voi. Andrea Monti. Il termine degradate è un termine tecnico e chi l'ha scritto... forse inconsapevolmente, forse magari proprio lo voleva fare, non ha capito che degradato è un termine tecnico e ha un significato ben preciso che comprende anche gli MP3. Perché, come dice Monti, gli MP3 sono una versione degradata, compressa quindi, sì, della musica originale. Di conseguenza il comma della legge ti permetterà di pubblicare MP3 coperti da copyright senza autorizzazione dai detentori di diritto d'autore e quindi su siti web o anche sui server peer-to-peer non conta più questa cosa e quindi noi liberi, cioè stasera forse a governo caduto si è fatta una primavera liberalizzazione, doveva accadere per oggi. Ho capito, stasera ci mettono dentro. Sì, sì, sì. E ci mettono dentro e allora giocheremo a guardie e ladri. Noi, come prima canzone, rimarrà la storia tra le tante coperte da copyright che però noi usiamo non a scopo di lucro, c'è Police and Thieves. Guardi, oh, ma no, il battesimo del copyright. No ragazzi, questo è un momento storico. Momento storico. Cioè, cominciamo con i flash. Io mi metto in ginocchio. Galera, sì, sì, sì, sì. E poi si va a prendere anche il leggio perché si citano i Clash. Comunque, polizia, ladri, guardie e ladri, chiamiamola così, italianizziamola così. Loro sono i Clash. The Clash su Radio Catrano 19. Vai, Ants! Perché tutto questo valga, e cioè che noi ci possiamo... siano effetti di legge, il ministero dovrebbe fissare. Bisogna attendere un decreto del ministero che fissa i criteri delimitati per gli usi didattici e scientifici. E quindi noi la sporchiamo così, guardie ladri dei Clash. Si potrebbe sentire tutto, ragazzi. Non si era troppo bella. È vero. Beh, dopo Dolly Generalità, Antonio Falzolai. Può essere un gesto politico, questo potrebbe essere un gesto politico, facciamolo, si fa? Sì, dipende dalla responsabilità. Sì, Antonio Calzolai, nato a Fucecchio. Ci prendiamo tutti la responsabilità. Io tutti. Sono le generalità. Perché forse questa valga come indicazione ma però ragazzi, a chi la facciamo questa indicazione se il governo non c'è più? Cioè, a quale governo lo facciamo? Al prossimo, a quello istituzionale che forse trovano, o a quello che viene dalle prossime elezioni? Cioè, non ho capito, a chi? Cioè, questa legge è arrivata, cioè, bisogna vedere se si tratta di ordinaria amministrazione o no. Perché molta di questa ordinaria amministrazione potrà dare non delle riforme grandissime in Italia, però sono tante questioncine rimaste un po' appese, voglio dire, che ci farebbero anche comodo. Sì, ad esempio, sì. Non so se è passata, se è rimasta lì, se è rimasta ordinaria o se è andata a fanculo. Mannaggia, la cosiddetta che davano ai dottorandi un centino di euro in più al mese, 100-200, che non era nemmeno male. E insomma, non so tanti soldi, ma uno qualcosina ci fa. I dottorandi. Ma la seconda cosa di oggi che vi volevo dire è un nuovo modo di dire. Non si dice più da oggi si dice un po' sul satellite, va, non rompe. Sul satellite? Eh sì, Perché? Perché l'Unione Europea ha bocciato le frequenze TV a Rete 4. Lo sapete, quel conflitto Rete 4, Europa 7, eccetera. Quindi, Fede, e vuoi mettere mai sul satellite? Ma no, io non ci vado. Cioè, andà via. Però... anche se in realtà, come tante cose del gruppo Mediaset, da mo' che lo sapevano che devo andarsene a fanculo. Comunque, infatti, no. Scusami, la programmazione di Mediaset, di Rete 4, negli ultimi tempi è stata buttata giù così. Riciclavano dei film rivisti 80 anni fa. Non è che si sono sprincipiati tanto, ormai ci mandano in culo. Lo sapevano anche loro. Sì, quindi, però, comunque, con la cosa invece che è, loro arrivavano fino al 2011 con le leggi. Il problema lì è un'altra volta che non hanno fatto la legge sul conflitto di interessi, ma siccome voi siete a guardare Anno Zero, carissimi radio web ovo etero tettatori tettatori tettatori tettatori tettatori tettatori, che se ne vorrebbe dire tettatori, quelli gli piace le tette e anche no, ma io mi scusate, no, però ci sono rimasto male, ma come cavolo si fa a vedere le meteorine da qui in avanti? Che sono le meteorine? Le meteorine sono quelle che stanno dietro Emilio Fede quando lancia il tempo. Ah, e questi qui dicono sta piovendo sul vagonaccio. E soffrono anche sì di malori legati a questa professione. Ma non di meteorismo. Delle belle figure ma che scorreggiano a morire, no? E insomma, queste qui raccontano che sta succedendo, sbagliando tremendamente, non capendoci nulla. Però hanno di alta o bassa pressione, però raccontano il che succede il giorno dopo. Si però fanno vedere il culo, fanno vedere bene. Ora il problema, come sono vestiti? Sono gli agricoltori. Ma nemmeno tanto scollacciate poi, cioè rispetto alla terzo colore, voglio dire. Vabbè, basta un guardiano. Gli agricoltori che seguono queste qui piantano fagioli, invece di giorno preciso o luna calante, piantano fagioli all'incontrario. E per questo motivo che l'agricoltura in Italia va male. Per colpa di Fede delle meteorite. E si meteoriti. Per le meteorite. E si tornerà tutti a zappare da qui in avanti. Ecco. E allora. Perché senza. L'agricoltura ci darà tante risorse. La nostra redazione. Anza. Sì, notizie Anza. La nostra redazione parlamentare ci informa che i dottorandi, è passata questa riforma che gli hanno aumentato la borsa, da dicembre stanno ricevendo 160 euro in più. Questo grazie ai ragazzi, gli ascoltatori di Radio Catrame 19 ci forniscono queste notizie in diretta. Noi li ringraziamo e li salutiamo. Li salutiamo molto molto pervicacemente. E ora, per non sapere né leggere né scrivere, siccome, come si dice, si prova a dar questo segnale di liberalizzazione, se vogliono veramente la liberalizzazione degli MP3 su internet, noi però adesso sentiamo una canzone che non ha di questi problemi, perché è una canzone, come si dice, di quelle che nascono in rete che rimanga nella rete, che rimangano anche nella rete. Stagnola, lui è Le luci della centrale elettrica. Enz, mixacela benissimo. Pettinato abbastanza per vederti, per non far piangere i tuoi salici piangenti, e ci piscino pure addosso gli angeli e i conoscenti morti negli incidenti, che non capisci gli incubi dei pesci rossi, e non capisci gli incubi dei pesci rossi. Pettinarmi le vene, parlandomi d'amore e di metadone, in televisione niente di speciale, tra il naso con la notte sera, corrono verso l'ospedale maggiore. Un po' di carta stagnola per addobbare a festa questa stanza di merda. Preservativi troppo costosi e dei tuoi minuscoli seni, che non capisci gli incubi dei pesci rossi, e non capisci gli incubi dei pesci rossi, e ci piscino pure addosso gli angeli sento i morti negli incidenti, pesci piscino pure addosso gli angeli, conoscenti i morti negli incidenti stradali, e ci piscino pure addosso gli angeli, e conoscenti i morti negli incidenti, morti negli incidenti. Di marciapiedi di quartieri industriali, e apri lo scrigno dei preservativi troppo costosi e dei tuoi minuscoli semi. Enz, ubriachissimo. Ogni tanto qualche errorino nel mixer lo fa. Grazie, Enz. Ma ascolta, Enz, ma veramente te conosci Pooh? E i Pooh ci potrebbero far parlare con Marini? E poi direttamente con Napolitano? Ma perché? Cioè, ci vogliono far parlare... No, aspetta, spiegate un attimo. Sì, ma infatti perché? Cioè, che ci parli a fare adesso con due mezzi... Insomma, ma ci potrebbe davvero Marini chiamare e convocare per formare una nuova forza di governo? Noi tre... Noi tre. No, vabbè. Dicevo. Si fa un triunvirato. Ci si mette lassù in cima, si fa le leggi. Si appare a persona, con un solo corpo e tre teste. Li fanno tutti, anche noi. Anche io voglio fare una bella legge ad persona. Dai, la fanno tutti. Contro una persona. Contro. Bravo. No, le leggi non si fanno contro una persona. Comunque, nemmeno per una persona. Come siamo politicamente corretti. No, bisogna essere onesti. Volevo dire una cosa, io volevo andare a prendere il leggio, perché con questo nuovo microfono volevo vedere se leggendo dal leggio viene meglio. Posso andare? Leggendo io vi lascio nelle mani di Enz e del mixer di Enz. Sì. È Briao Mezzo. Sì, è Briao Mezzo. L'avete visto in che condizioni che è? No, stasera... Vado, torno subito. Stasera qui a parlare come scrivi, c'è questa cosa qua, cioè sensazione di novità. Cioè l'innovazione tecnologica che entra... anche negli studi di Parla Come Scrivi, cioè siamo emozionati, diciamocelo, incavolati per dei versi, emozionati per altri. Mi sembra di essere come quando Corrado per la prima volta in Rai apparve a colori. Forte. Peccato che nessuno l'ha visto, che c'è 8 persone che lo dicono a colori in Italia, però è figo. Posso usare questo momento per uno spot, ma uno spot molto bello e positivo? Perché nel frattempo che ci montano anche i leggii qui, i nostri tecnici di studio, vi ricordo una cosa: noi siamo radio e quindi abbracciamo la proposta di un'altra radio, che poi insomma siamo in un contatto strettissimo, che vabbè, oltre al Marino di Fahrenheit, siamo anche amici di Caterpillar. E quindi sta cosa che fanno loro è fortissima. Mi illumino di meno, 15 febbraio, giornata del risparmio energetico, dalle 16 alle 18:30, fate quello che cazzo vi pare, ma spegnete qualcosa, anche simbolicamente le luci di casa, andare a accendere lumi di candela, se lavorate in qualche ufficio o azienda, fate qualcosa, dite ai vostri colleghi di spegnere le luci, di riciclare la carta, fate qualcosa, non spegnete il cervello. O forse magari qualche volta ci sarebbe bisogno di spegnere. Oppure al lavoro, accendete il cervello e spegnete la luce, fate qualcosa, mi illumino di meno, brillo di più, come dice la canzone, l'inno. Mi raccomando, notizia di oggi, che ce la potevamo anche risparmiare, però sul mi illumino di meno ha avuto una risonanza internazionale, perché sono andati lunedì all'ambasciata britannica a Roma, perché voglio rilanciare mi illumino di meno anche all'estero. E che è successo? Ce l'hanno fatta, e chi ha boccato il primo britannico? Il principe Carlo. Ha detto, sai che è? La faccio pure io, mi illumino di meno. Perché non ho capito com'è la situazione, ma Buckingham Palace c'hanno tutta una questione di sostenibilità, per cui ci vuol far credere che non costa nulla gli inglesi. Ma... Vabbè. Cioè, risparmieranno 25-30 sterline in più, magari al mese di luce, dai, ci può stare, dai. E bravo Carlo d'Inghilterra. Belle porte. Allora, ragazzi, sì, io non sono c'entro nulla, ma qui c'è da pagare la bolletta, se no ci spenga la luce. Sì. La fai pagare voi? Sì. Sì. Ah, sì, no, sì, no, sì, no, sì. Vorrei fare quella. Io ho i soldi da Taenze. No, che la dai? Sì. Ma sei stupido però, eh. Vabbè, oh, mi ha detto, guarda, vado io, passo io alla posta. Ma come allora. Solo per cavolo alla posta. Che quanto gli avevi dato? Sei 180 euro. 180 euro. Oh, 180 euro. Stupido. Perché? Ragazzi, Enzo l'ha pagato. Ma perché l'ha pagata? Ha pagato me. Scusami, mi fai vedere la ricevuta? Scusate, la ricevuta, ti hanno dovuto... Prima di andare a mangiare anche se paghi il banco, Enzo, la ricevuta. Questo qua, e si infilavano il barrettino dentro la posta. Io lo beccavo là, c'avevo un monte di soldi. Enzo, da quanto cazzo bevi? Da quanto cazzo di tempo stai bevendo? Enzo. Vabbè, la situazione ci sta un po' sfuggendo di mano, devo dire che Enzo sì, si fa abbastanza sfuggente, è una condizione di... Io scusate se rido, ma vedere Enzo in questa condizione mi fa scattare, è terribile. Guarda che ti mandiamo in Bozawa, Painted Black, The Painted Avengers, Black. Painted Black, quella dei Rolling Stone famosa, però rifatta dai The Avengers, vai Enzo, per l'amor di Dio, ne ho visto appello. Di Banca Italia ci dicono che il 10% dei ricchi posseggono il 45% di tutte le ricchezze nazionali, mentre il rimanente 90% si spartisce il 55% e nella ricchezza è compresa anche la casa di proprietà. Gusto a farci i ponti con Radio Dies Screaming dei Flesh Eaters. Noi dobbiamo citarli anche perché senso ce li mette con musica di sottofondo, non è assolutamente svilente, che lui ci fa i passaggi in questa maniera qui. Ma andiamo avanti con la trasmissione, no? Siamo partiti dalla crisi, da un buco della crisi, quindi da questo possibile buco che potrebbe esserci nell'applicazione della nuova legge sul diritto d'autore, che però il governo, nuovo, vecchio, chissà cosa faranno e fra quanto, dovrebbe comunque definire meglio. E quindi noi abbiamo fatto questo piccolo esperimento di passare una parte di canzone dei Clash come, diciamo, segnale che questo non svilisce assolutamente niente. Noi non ci facciamo soldi e facciamo semplicemente pubblicità ai Clash, che tra l'altro non ne hanno nemmeno bisogno, direte voi, ma questo è tutto un altro paio di maniche. Poi siamo andati adesso a parlare del... abbiamo parlato di Andrea Monti da Pescara, che è stato colui che, spulciando la legge in questione, ha trovato questa falla e questo termine nuovo di cui ci ha parlato Liv all'inizio, che è degradate, degli MP3, che sarebbe musica degradata in quanto appunto già compressa secondo algoritmi che ne consentono la trasmissione in rete. E adesso vi abbiamo anticipato qualche dato dall'ultima indagine di Banca Italia. Il nostro sociologo Calzolari ci ha letto, tratto dal manifesto di qualche giornetto fa, un paese di classe di Galapagos. Esatto. E insomma, su queste note non troppo, ma questo sappiamo che è così da parecchi anni, non troppo liete, il nostro vagonaccio va avanti e va avanti con la nostra musica, va avanti con il nostro palinsesto che si dipana. Noi cercheremo in settimana di finalmente dare la possibilità ai nuovi visitatori di vedere un sito con una nuova grafica. Stiamo cambiando il vestitino al sito di Radio Catrame 19 e poi c'è stato questo periodo così in cui il palinsesto è stato veramente ballonzolante, ma cercheremo di rimpinzarlo il prima possibile, sia con i fondatori stessi di Radio Catrame 19, parliamo dell'Arsenio Bravuomo, parliamo di Guido Catalano, parliamo di tutta la, diciamo così, la sezione torinese di questa radio bituminosa, che potrebbero in tempi brevissimi ritornare su queste frequenze binarie. Questo, sì, ma volevo dire che nel sito ci sarà anche una parte con delle foto un po' particolari, cioè abbiamo deciso, come dire, per acchiappare qualche tele, radio, ovo, web spettatore in più, magari con che gli garba a vedere le donne nude, ecco, gli si dice stosa qua. Cioè nel sito ci sarà anche una ventina di nuove foto al giorno, di, ma non proprio nude, però qualcosina si vedrà, che Strelnik provvederà ad aggiornare ogni giorno cercando in rete ulteriori foto di ragazze un po' in déshabillé. Tutto in Creative Commons. Tutto in Creative Commons, naturalmente. Cioè, ci sono le voci di corridoio che... ci dicono che forse anche Liv farà, vabbè, no, ma questo no, lasciamo stare al futuro, non sappiamo, non mettiamo limiti, tutto potrebbe succedere. Cosa seria? Avevo detto bene, al CEI.it, Electronic Frontiers Italy, è un'associazione per la libertà della comunicazione elettronica interattiva che c'è dal 1994 e si batte sempre a livello anche legale e informativo per la libertà delle comunicazioni elettroniche, sia a livello nazionale che internazionale, nel rispetto dei diritti del cittadino nell'uso delle reti telematiche. Diamo l'URL di questo alcei.it. E allora, dopo Painted Black, noi vi spacciamo le cose serie. Entra, sì. metti una canzoncina più sentimentale, c'è, cioè, il mio angolo magico, l'angolo magico, delle cose serie, l'angolo delle cose serie. Però mi sa che Hans trova che musica volete, dice Hans, di sottofondo, ma anche quella lì di quelli di Bochum, c'è, cioè quella Emilaven, che aprono tutte le volte le nostre puntate. Se venissero in Italia, o anche se venissero vicino all'Italia, io andrei a sentire, ma mio nemmeno tanto, io sì. Io ci andrei proprio molto volentieri. Si va a Coez, si piglia l'ape. Si va a Milave, a Bochum, andiamo a Bochum. oroscopo della settimana dall'1 al 7 febbraio 2008. URL, vai. internazionale.it, vedete l'oroscopo del mitico Rob Bresnik. E siccome noi siamo tutti dei gemelli e degli altri non ce ne frega un cazzo, leggiamo sempre solo l'oroscopo dei gemelli per gli altri, per andare a vedere voi, perché a noi ci interessa il nostro. Voi lo fate apposta per farmi entrare in paranoia. Ma ne devo leggere uno, Bresni, che è la legge veramente, poi un altro che invece era carino oggi. Andiamo avanti. Vediamo che succede nel nostro futuro. Un viaggio nel futuro. Magazine.com ha intervistato alcune modelle per conoscere il loro orientamento spirituale. La religione migliore è il buddismo, ha risposto Elise Bergeron. Non devi credere in Dio o nell'inferno. Inoltre, i riti buddisti sono così poco conosciuti che probabilmente riusciresti a farti dare un sacco di giorni di ferie facendola passare per festa religiosa. E poi è la religione più alla moda. Ti consiglio di prendere esempio da Elise, gemelli. Nelle prossime settimane dovrai nutrire il tuo lato spirituale in modo divertente e leggero, senza preoccuparti di ricompense o punizioni. Bresnik si panico perché ti fa l'oroscopo dal 1 al 7 febbraio e ti dice nelle prossime settimane, quindi per sapere che ti succede adesso dal 1 al 7 febbraio devi leggere l'oroscopo di 3 settimane prima, che ti diceva non mi ricordo. Comunque si viene sempre poggi e bue fanno pari, come si dice, alla fine se comunque ti semina prumi un po' da scherzo. Che poi happymagazine.com, se vuoi andare a vederlo, non è che mi sembra un grande giornalone, perché il payoff è we think so you don't have to. So we think so you don't have to. Sti cazzi. Noi pensiamo così te non devi farlo. Bella roba. L'articolo di punta è di apertura. Carla Bruni e Nicolas Sarkozy, Secrets Wedding. Sti cazzi anche questo, eh. Ragazzi. Che poi la cosa di Bruni e Sarkozy non è solo una cosa italo, diciamo, italo-francese, franco-italiana. Interessa a tutto il mondo. Ma perché? Perché secondo me fa un po'... Greschelli e là, e come si chiamava il principe di Kennedy e lei che si chiamava? No, Jacqueline Kennedy, come si chiamava? Com'è il suo nome? Jacqueline? Non lo so. Lei è pure un assist? No, la Callas era un assist. Non lo so. Fa questa storia così della bella donna che comunque mai stupida attrice che si devolve la vita per un uomo politico, ma Sarkozy non mi sembra comunque né Kennedy né manco principe di Monaco in fondo, anzi è l'americanizzazione, la spettacolarizzazione. Ma ci pensate gli autori di Happy Woman Magazine, cioè come immaginano la società, cioè siamo proprio dei deficienti. I media, come se la immaginano gli autori dei media la società? Se la immaginano, secondo me, come una serie di persone in stato di semi-anestesia perenne. Cioè così, il consumatore per loro è una persona che si muove così, no? Perché noi siamo, cioè, una società che ricerca un sogno, in Sarkozy e la Bruni. Madonna, siamo messi bene. Se fosse così, veramente. Cioè, secondo gli autori dei tanti media, se non si fosse una società di deficienti e se fosse veramente così. Comunque, anche se non siamo, ci trattano come deficienti. Il casino è che noi ci si fa trattare come deficienti. Ci si fa trattare come deficienti. Io ho questa sensazione qui. Ma forte, non è sincera come sensazione. Cioè, a certe volte dico, ma voi pensate veramente che non siamo scemi? Cioè, che vi si sta ascoltando, che voi ci... Cioè... Ma il problema è anche quando le istituzioni ci trattano così. In questo momento... A parte le istituzioni, quelle tu le chiamate istituzioni, ma la Banca d'Italia, cioè ci racconta di questa disuguaglianza, di questo sistema che ora si può parlare anche un pochino di valori, ma tra giustizia e ingiustizia sociale mi sembrerebbe particolarmente ingiusto, con l'indagine che fanno ogni 2-3 anni, ce la racconta la Banca d'Italia e non succede nulla. Niente. No. Niente. Come dico, guarda, mi stisce anche. Perché la stessa, le stessi risultati ce li dava 2 anni fa, 3, nella precedente, e gli stessi, anzi forse leggermente migliori nei livelli di concentrazione, ce li dava 3 anni prima. Cioè non è cambiato nulla. 3 anni prima. Sai cos'è? E qui gli autori hanno fatto un bel chiasmo, un bel incrocio, che è come l'oroscopo di Breslin. Però, io ti rispondo. Ti rispondo, sociologo. Vai. Io ti rispondo e tu mi dici il perché di questa cosa. Abbiamo appena citato, nemmeno fa l'apposta, Nicolas Sarkozy, per quella stronzata della Carla Buffi, sì, come gli pare. Ma tutto il mondo, là, ma si sono sposati, ti avessi visto l'anello uguale a Cecilia, tutte queste storie. I francesi, comunque, sti cazzo di francesi, invece non gliene frega niente. Seri, ti puoi trombare chi ti pare, lo posso anche leggere, però porca miseria, io ti guardo quello che fai, perché i sondaggi di Sarkozy lo danno a picco, perché i francesi non perdonano al presidente l'incapacità di migliorare la situazione economica del paese. E ha raggiunto Sarkozy nei sondaggi il minimo di popolarità dall'inizio del suo mandato. Il 55% delle persone intervistate dalle Figaro dice di non fidarsi del presidente, il 68% ritiene che le condizioni del paese stiano decisamente peggiorando. Ecco. E i francesi come sono attenti però subito, E un altro giornale che non so come si dice, L'Éclair des Pyrénées, attribuisce questi dati negativi alla cattiva gestione della situazione economica. I francesi mal sopportano l'incapacità di agire, come fu per Mitterrand nell'83, per Chirac nel 96 e per Jospin nel 2000. Si aspettavano che Nicolas Sarkozy avrebbe saputo controllare efficacemente le stabilità e gli sbalzi dell'economia. Invece questi puntano subito i piedi. Esatto. Noi perché non puntiamo i piedi? Perché, sociologo, perché gli italiani non puntano i piedi di fronte alla monnezzaia? Perché gli italiani sono contenti di vedere Sarkozy a Rai 2. E gli italiani pensano, cioè sicuramente non riflettono su questi dati dell'indagine, perché signore e signori, e bisognerebbe fare la rivoluzione. Non c'è, cioè, nemmeno più le istituzioni ci stanno raccontando che una soglia del 30% della popolazione italiana lo sta prendendo nel buco, proprio per fare un aggancio con le cose che si diceva prima. Il buco della banca, del conto corrente. Del buco nella legge. C'è un buchettino nella legge. Forse questi qua sono gli unici spazi in cui forse si può lentamente raccontare. Ma lentamente, però c'è un'urgenza. C'è un'urgenza. Non voglio dire tutto subito, però c'è un'urgenza. Perché questo aspettare alla fine, come si vede, la tecnica attendista porta a poco. Mica che bisogna andare a fare delle azioni violente, però comunque non far qualcosa, perché il problema è, se posto la sociologia, è quando cacchio si fa la rivoluzione. Cioè il problema è che non si sa, non c'è un segnale. Che segnale si potrebbe, io che segnale, un segnale si parte, la fine del lavoro. Uno si alza la mattina e dice è la fine del lavoro, è finito il lavoro salariato, si è finito. E parte la rivoluzione. E la gente dice, è vero, no, la rivoluzione, non so se si chiama la rivoluzione, ma si fermano tutti, tutti fermi, cioè ragazzi, ma che si fa? Questo è bellissimo. Però per far così bisognerebbe fare come hanno fatto loro cioè, diciamo così, la classe dirigente economica, politica che c'ha il potere ora è... quello che hanno fatto... Chi c'ha il potere? Ma io me ne sono perso. Infatti, i soliti, se la rimbalzano... Che cavolo c'è il potere? Poche generazioni di ricchi vecchi, questo è il poema. Comunque bisognerebbe fare come hanno fatto loro, cioè che hanno fatto il deserto e l'hanno chiamato audience. Invece non si vuole questo, si vorrebbe che la gente ci arrivasse individualmente. Bella questo paragone, ma è tuo questo paragone? Era tanto che ci pensavo, lo volevo scrivere nel blog, poi ho detto, ma lo dia a voce alla radio. Ma è bellissimo, bravo, me la sono bruciata così, però. Me ne sono accorta, tu pensavi che nessuno si accorgesse, invece proprio io perché dai, ti capisco. Dai, vedi il foglietto dove l'avevo scritto. Non l'hai copiata. No. Questo è da manifesto, il piacere. Tacito, l'hanno fatto il deserto e lo chiamano pace, cioè i romani. È una, diciamo così, è la parodia. Attualizzata. Il lavoro rende liberi. Ecco. Siro. No. Cagasonic. Si dice Cagasonic. Quanto entusiasmo e opportunità che avrai. Basterà tapparsi il naso per calarsi in questa realtà produttiva che dà incentivi, sporchi e spinte verso nuovi obiettivi per la maggior gloria dell'azienda senza vergognarsi un istante mai per tutta questa ridicola faccenda. Ho cercato pazientemente e non ho mai trovato niente, ho insistito garbatamente ma il mio schifo è insufficiente. Trying to fit into the world, he went all over the coast. Couldn't have breathing, he was sick of his toes. So he decided to build something bigger than ropes. But he was sick of himself, till he was sick of his health. And he went out at night and he sneaked his stealth. And somehow he found that he figured he fell. Allora, noi stavamo facendo un giochino che abbiamo scoperto, forse gli altri lo sapevano, ma noi no. Ed è veramente carino, un upload di Google Maps. Google Maps. Visto che questa è una web radio, voi quasi al 90% state ascoltando questa cosa davanti al computer, quindi se volete in diretta andate su Google Maps, Per ora potete solo scrivere delle potete solo scrivere delle città americane, almeno così abbiamo capito noi. Mettete ad esempio New York, quindi fate New York, ok, invio, e vedete qua, vedete cosa vi compare su Google Maps? Oltre alla visione della strada, del satellite, c'è scritto anche vista stradale. Se cliccate sulla vista stradale, aspettate un pochettino, vi comparirà un omettino e si aprirà subito una finestra nuova a mo' di televisore e potete vedere la strada, cioè il video della strada. Volete vedere il Madison Square Garden? Andate lì, cliccate e li mettete nella strada ed è fighissimo. Cazzo, ma è bellissimo. Sì, questo crea un po' di problemi a livello di privacy. Beh, sì, e di controllo, perché comunque il non che non ci siano già forme di controllo audiovisivo nelle nostre città, anzi, vicino, diciamo così, ai punti di potere, naturalmente. Ragazzi, o si può fare nulla. ma tu ci sei, che ci saprà per caso una webcam qui vicino? Ci stanno vedendo. La webcam ce l'abbiamo soltanto. Avevamo provato a fare. Ti ricordi quando facevamo gli esperimenti con Mogulus? Quanti anni saranno passati da quei tempi? No, quest'estate. Non si parla del passato. Quasi 40 anni. Madonna. Tanto tempo. Veramente tanto tempo. 40 anni fa. Quante puntate che è che si fa di parlare voi? Questa mi sembra un ricordo. 27 millesima. La 27 millesima puntata. Voi comunque siete arrivati in fondo a questa puntata numero 27 di Parla come scrivi, e siamo partiti dalla crisi, da un buco nella crisi che era quello non ancora praticabile fino in fondo del, diciamo così, dell'usabilità, vista la loro degradabilità degli MP3 in rete. Nel frattempo io sto guardando Madonna Avenue. Invece io so pensare alla rivoluzione ancora. Che non il nostro sociologo Calzolai, dopo aver letto e commentato alcuni dati della, dell'ultima indagine di Banca Italia, ha scritto con la K, sono scritto loro con la K, e sì, lo vedo abbastanza infervorato, come si dice. Perché noi si scherza qua. Sì, si scherza, però si fa per ruzza, come si dice dalle nostre parti. Però un poverino ci si incazza. Diciamo così, veramente siamo alla difesa estremi. Cioè, guarda, la vittoria è vicina, sembrano dirci Milaven, sempre Milaven. Mastella l'altro giorno. Ragazzi, Mastella l'altro giorno muore a tale dimensione, cioè muore un momento storico, cioè il picco più basso della politica italiana. Gli sputi in Parlamento. Vabbè. Finale di puntata numero 27. Noi abbiamo soltanto da scegliere una canzone per darvi la buonanotte. E lo facciamo con una canzone di Federico Fiumani che si chiama Non Sua. L'abbiamo già fatta sentire un'altra puntata, una puntata precedente. Federico Fiumani, che su diaframma.org, come regalo di Natale del 2007, appena testè, che parola buffa che è testè. Passato, ci regalava È la pioggia che va, il suo rifacimento. Strelnik, mi raccomando, Strelnik. Lo dicevo, Strelnik. E sì, mi raccomando, Strelnik. Ecco, e quando non prende ganci così, ragazzi, Hans, gli ha dato delle belle fiatelle, anche te. Strelnik, lo so, sì. No, e c'è da fare, io non voglio salutarvi. Ecco. Non voglio salutarvi le facce di tutti, perché mi diverto qua, in radio, con questi ragazzi. E noi si Strelnik, Calzolai. Yeah. Calzolai, e poi Cari, uovo, web, radio, forse tele, perché ci state anche spiando una webcam dai satellite, qui con noi e con voi, live. Grazie ragazzi, come siete bravi. E poi? No, io sto vedendo il negozio della Ferrari con su Google Maps. Sì. Stavo cercando la braserine Sole. Io stavo cercando la braserine Sole dove dove lavora il mitico cuoco Anthony Bourdain, ho trovato invece il negozio Ferrari a New York. Vabbè. Beh, Bertossione, anche lui Bertossione. Ma se si chiudesse. Vabbè, la pioggia che va chiude la finita. È la pioggia. Oddio, è un po' triste però, Strannick. Allora che si mette? La pioggia che va, perché prima io metterei di iniziare... Allora guarda, io faccio questa classione, classicone, metterei Factotum. Abbiamo già fatto sentire Cagasonic, io metterei Factotum. Se no ci sarebbe un'osa che anzisse. Cosa? Te la ricordi la canzone che si sentì l'altra volta? In un nostro ascoltatore di quello che diceva Alberto Sordi. Bravo, bravo, così mi ramolo. Questa è i nostri ascoltatori ci dicono rimanete, non guerra... staccate. No dai, si rimane. Finché c'è guerra c'è speranza. Un film è Ganzista. Ci stanno mandando una canzone dai nostri ascoltatori su... non so che cos'è. No, la mettiamo. Fatti dire che canzone è, che la si mettiamo. Si chiama Eldorado.mp3, non lo so. Però Alberto Sordi ci vuole. Sì, ci vuole. E allora vado subito a cercare insieme a Nancy, gli do una mano perché lo vedo ancora sulle soglie dell'ubriachezza. La canzone si chiama Morricone. Sentitela perché questa è ganzissima, ganzissima. Loro sono i Searching Guitar. E dopo vi dico anche qualcosa del musica Creative Commons. E dopo vi dico anche qualcosa di più rispetto proprio al progetto che ci sta dietro. Intanto sentitela, Morricone. Mi sono gasato. Intanto ringraziamo gli Wolf spettatori perché ci mandano le cose in diretta. È bellissimo, è una puntata veramente bella. Morricone, vai Jens. Gemma, l'altra sera, guardandomi l'anellino nuovo, mi ha detto: carino, cos'è scoppiata, un'altra guerra? E i tuoi figli? Sai cosa gli hanno fatto i compagni di scuola, Rick? Gli hanno sputato in faccia e gli hanno detto: tuo padre è un porco che sfrutta il sangue dei negri. Papà, trovo parole per esprimermi, ne trovo una sola, vergogna, vero Mario? Vergogna. Ma che cazzo state dicendo? Vergogna, non vergogna? Ma se l'ha fatta per voi, per la sua famiglia. Ma se non sono riuscito che a farvi piangere, non li vedo. Vabbè, ma piangono nel lusso, piangono nel benessere, piangono nell'agiatezza. Di cui non sapevamo la forza. Se avessimo saputo da dove veniva questa agiatezza, papà, non l'avremmo mai accettata. E va bene. Adesso lo sapete. Allora ditemi voi quello che devo fare. Posso anche cambiare mestiere, sì. Io mi rimetto a vendere le pompe idrauliche. È un articolo semplice, pacifico e socialmente utile. Le mie 300-400.000 lire al mese le guadagno sicuro. Ed è una cifra con la quale una famiglia può vivere anche decorosamente. Se si pensa che un terzo del mondo avrà il reddito pro capite di 30.000 lire l'anno, ma non come voi, non come abbiamo vissuto noi fino ad ora, no? Non ti pare, cara Silvia, e anche voi, miei cari ragazzi? Perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra che vogliono, non si accontentano mai. Le vite, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le vite, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, le vite, come che ci fanno le guerre. Sentite, io non gliela faccio più. Sono morto di stanchezza. Ho bisogno di dormire almeno un'oretta. Io dovrei ripartire subito, oggi. Ho un aereo alle 5:10. Devo andare a piazzare un carico di 70.000 mitragliatrici. Vabbè, fate voi, decidete voi. Tutto quello che voi mi dite mi sta bene. Se voi volete veramente che io cambi mestiere e che riprenda il mio vecchio lavoro delle pompe idrauliche, allora non mi svegliate, fatemi dormire fino a domani mattina. Se invece decidete che io debba ripartire, allora svegliatemi fra un'ora. Alle 3:30. Dottore. Eh? La signora mi ha detto di svegliarti. Che ore? Le 3:15. Pure un quarto d'ora prima. He broke from them. And then he broke from himself. I'd never seen a man so broken up and ripped apart. Questa è veramente, veramente una bella rielaborazione in... Questa è veramente una bellissima rielaborazione in CCL ad opera, come vi dicevamo, dei Searching Guitar, che fanno parte e che hanno pubblicato questo loro lavoro che si chiama Come On In The Trip volume 2 Fagogito Ergo Sum tramite il progetto CoRec, Cooperative Recording, uno spazio sonoro pubblico ed autogestito la cui intenzione è di agevolare la produzione e la distribuzione libera della musica, la diffusione di una cultura pubblica del suono. La filosofia alla base di questa esperienza ci porta a considerare il musicista non un congegno da cui poter avviare la macinazione di profitto, ma una macchina radicale e desiderante alla quale abbiamo la sola pretesa di fornire un ulteriore dispositivo in relazione alla produzione artistica. Così, l'autogestione diventa per noi un principio base ed un criterio organizzativo imprescindibile per il miglioramento del tutto. In altre parole, l'adesione da parte dei musicisti andrà ben oltre la stipulazione di un contratto, ma significherà essenzialmente contribuire anche con le proprie idee ai successivi sviluppi e alla crescita dell'etichetta in rete. E www.corec, scritto ko-rec.org, trovate tutte le informazioni poi su Radio Catania. Metteremo anche il link testuale. E allora, che impressione ti ha fatto questa Morricone? Ma c'è una miseria, ragazzi. Scherzo, ma questo Alberto Sordi era da paura. Piccoli egoismi individuali che però diventano. Ma così non è che poi. Diciamo che la. A chi dice l'italianità? Ma come. Cioè, a una parte recitata benissimo. E siamo così davvero? Siamo anche così, ma non siamo solo così. Purtroppo ce ne sono troppi così. Che questa è una. Non so se. Non mi ricordo bene il film, però sembra quasi. Lui a un certo punto ha una presa di coscienza, cioè si rende conto di che cosa sta facendo. Non mi ricordo se scoppia perché è esaurito o se scoppia perché vede qualcosa che a un certo momento gli strappa questa buccia, no? Fa questo effetto di straniamento e dice: oh, ragazzi, ma io sto vendendo le bombe, le mitragliatrici a popoli che si. Tra l'altro con un vecchio trucco che funziona sempre, quella di venderla naturalmente a una fazione e anche all'altra, che poi è trucco vecchio nei libri di Paco Ignazio Taibo sulla scia, che ce lo insegna. L'importante è finanziare tutte e due le parti, perché così si guadagna dall'uno anche dall'altro. In questo momento è partito anche uno scaracchione che colpì, ahimè, inavvertitamente la pupilla del sociologo nostro, che ora soffrirà di midriasi, come dice Veronesi nella pubblicità. Dilatazione della pupilla, eh? C'è una pupilla, non la potete vedere, ma è gigantesca. Sì. Grandi distanze, guarda. Sono diventata tutta una pupilla. Poi ci sono queste lucettine del mixer ora che ci fanno molto, molto piacere, molto piacere vedere. Comunque, posso ricordare Alberto Sordi che lui diceva altre due frasi fantastiche. Una sì, che è una pura verità. a molti giornalisti gli chiedevano: ma com'è che non ti sei mai sposato? Come mai? Eppure hai amato tante donne e così. Lui rispondeva in modo fantastico. Cioè? Ma che sei matta che mi mettono estranei in casa? E mi dice: sposassi e mettiti estranei in casa. Legalizzare, capito, l'ingresso, l'immigrazione di un estraneo a casa tua, in casa, sì, che non si sa da dove viene, da chi ce l'ha mandato, chi è. Sì, è una visione un po' distorsa, sta idea, sì, rapporto tra le persone. Che poi Alberto Sordi, secondo me. Ve lo meritate, Alberto Sordi. E poi diceva anche quell'altra, com'è, quanto è brutta la vecchia, c'è, cioè, chi prende. No, chi? La vecchiaia è una brutta bestia, chi pia le gambe e chi pia la testa. Questo però vabbè, sono detti. La detta a Mar Buongiorno. Il Marchese del Grillo, comunque, diceva una mischiata. Film di Alberto Sordi, diceva che il mondo è fatto a scale. C'è chi scende e chi sale. Però in realtà, purtroppo, cioè non è che ci voleva. Purtroppo, in realtà si rimane sempre lì, più in basso. Ah, si può dire, vivacchiare. Sennò poi ci dico, non si va né in su né in giù, no. Questa cosa qua con il Marchese del Grillo, io Marchese e sono in disaccordo. Questa società e non si muove per nulla, è sempre uguale. Cioè significa che noi abbiamo una mobilità sociale inferiore a quella della Roma papalina del 1600, della seconda metà del... Disuguaglianza e mobilità sociale, cioè grandi temi che ci aprirebbero nel mondo della sociologia. Si fa partire la musina, sembra un po' veloce. Ci sono la musichina che ci hanno mandato i nostri Radio Ovo Web spettatori, che non so quanto c'entri con questo. Non lo so, però il titolo ci piace, perché il titolo è Eldorado, e noi aspettiamo, arriverà questo Eldorado anche per noi. Sì, Eldorado, la cantano i Mau Mau, noi ringraziamo Mastro Roberto. Gli stessi che hanno scritto la canzone di Un numero di meno, tra parentesi, ricordatevi, spegnete le luci. E quando è il? Che io, 15 febbraio. 15 febbraio, io ero andato là a prendere il leggio. Vai. Allora, Eldorado, grazie. Poi far via la luce perché Enzo non ha pagato la bolletta. Vabbè, io soldi glielo dà. Quindi vediamo. Vai. Grazie a Mastro Roberto, Eldorado, Mau Mau. Enzo, ora ti si tronca. 19. No, facciamo così, che questo è comunque un contributo di responsabilità dei nostri Ovo Web spettatori, che dicono anche loro, anche noi ci prendiamo la responsabilità di mandarvi un MP3 degradato. Grazie, questo è un gesto politico che noi apprezziamo. Grazie Mastro Roberto. Grazie. Grazie. No, anche perché Mau Mau fa le cose per l'ambiente, mi illumino di meno e farò un pescazzino sul diritto d'autore, ma no. Tranquilli. Ciao Mau, ciao. Yeah. pubblicità americana. Mastro Roberto, un saluto dal calzolaio. Saluto. Un saluto sincero. Anche da Strelnik, naturalmente. Anche da Strelnik. Il tempo lava come un diluvio, lava la storia e la mescola. E allora su queste note vi ricordiamo tutto quello che noi dobbiamo fare. Ricordatevi di concorso Uzzo che va alla grande, mandate una mail a fare @rai.it con l'H in mezzo. Marino vi saluta, anche lui ci ha chiamato oggi, ci fa tanti auguri, le parole che finiscono con Uzzo. Si scherza, se mi guardi. Ciao Marino. Schermo delle mie brave, inquadra almeno il culo della mia anima. Amaro, vai! No, Enzo si sta con la bottiglia di vino bianco, ti fa ripiglia io, vai Enzo! Enzo, e ti si tronca, tira fuori i sorti! Ma che la sputtana è che ti bene? Enzo, e si viene costi, ti si tronca, Enzo! Guarda che... No, e ti si... Enzo, indola butta i sorti, la pagala, pure! E un saluto a tutti gli ovo ascoltatori. Gli ovo web spettatori. Da Liv, il sociologo calzolai che sarà con noi solo per poche, pochissime puntate. E poi chissà. E poi chissà. Chissà. Eh sì, perché in questa trasmissione noi parliamo di tutto, meno dei cazzi nostri. Meno dei cazzi nostri, che sono top secret, perché di questa storia ne sentirete parlare ancora. Molto. Ci sono, vabbè, dai, la dico. Perché si c'ho parla... la percentuale su Eva 3000. C'ho le mie foto. C'ho le mie foto in. Con Carla Bruni così, in Egitto. È con una persona. Con una personcina e stanno su Eva 3000, quindi comprate Eva 3000 perché c'ho il 10%. Scoop con Benedetta del Grande Fratello, che è di Tortoreto, vicino a casa nostra. Calzolai c'è uscito 6 mesi fa e ci abbiamo una foto con lui che sta a cominciare con Benedetta del Grande Fratello. Eccola là. Non è assolutamente vero. Vuoi smentire? Smentisco spudoratamente. E allora siamo arrivati in finale, anzi ci ha lasciato naturalmente in brache di tela. E, siamo Hans, però così, con questo mixer non è che ci capisci un granché ancora. Sento che Hans mi lascia in questo vuoto, non capisco come mai. Come mai? Perché è un momento di riflessione. Dopo un momento... è bello stare solo con noi stessi, sentire la nostra voce. La nostra voce che rimbomba nelle orecchie e salutiamo così, con tranquillità. Così, lentamente. In silenzio. Lentamente. Molto lentamente. Lentamente. Famos sognar come. Se ripigliami però, noi lentamente. Lentamente, famos sognar come. Buona noce. Finale a cappella, dai. Finale buonanotte. Senza. Vai. Lentamente. Ma il mio mistero è chiuso, te ci è uscita un po'. No, riproviamo, si può rifare meglio. Lentamente. Radio Catrame 19. La tua web radio inusuale.